GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si è arreso e ha consegnato pochi minuti fa ai carabinieri le armi di cui era in possesso Luca Orlandi, l'ingegnere che da mercoledì mattina era serragliato nel suo appartamento di Cordovado. Il 55enne si trova ora in un esercizio commerciale vicino alla casa, sta parlando con gli inquirenti. Confindustria, secondo semestre in salita per le aziende del Friuli Venezia Giulia. Mitigano i timori, tassi stabili e il PNRR a regime. 75% di sconto su tutte le tipologie di ski pass per gli under 19, gratis per chi ha meno di 8 anni. La giunta regionale ha stabilito il tariffario per gli impianti di risalita. Agricoltura al via, il bando regionale per gli impianti fotovoltaici, 10 milioni di euro per le aziende agricole, domande dal prossimo 7 settembre. Stagione turistica condizionata da meteo e inflazione per Federalberghi a Lignano, hanno sofferto alcuni singoli operatori a causa dei prezzi praticati e dei servizi offerti. 150 arbitri alle prese con i test atletici a Tarvisio saranno a disposizione della Federazione Regionale per il calcio dilettanti. Attesa per il confronto Udinese e Frosinone domani a Friuli, i ciociari non hanno mai vinto in trasferta a Udine. In Serie C la Triestina presenta stasera in piazza la sua prima squadra. Ben ritrovati da Maria Spezzi e Francesca Vigori. Si è dunque sbloccata e nel migliore dei modi la situazione a Cordovado. Poco fa Orlandi si è arreso e ha consegnato ai carabinieri le armi che deteneva ormai illegalmente, a causa delle quali si era serragliato a casa, costringendo l'intero paese a bloccarsi per oltre 48 ore. L'uomo è uscito dal suo appartamento e proprio in questi minuti sta parlando con i carabinieri. Diamo subito la linea ad Antonio Di Bartolomeo, che si trova sul posto. Mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, la svolta è arrivata poco fa, dopo oltre 48 ore di stallo. Già ieri sera c'erano le avvisaglie che la vicenda potesse concludersi positivamente, con i carabinieri che hanno riferito di un avvio di una trattativa diretta, cosa che nelle prime 24-30 ore era mancata. Si erano sentiti prima al telefono, poi questa mattina di nuovo le negoziazioni sono riprese. Attorno alle 10 tutte le persone che operano all'interno della zona chiusa, anche alla stampa, hanno trovato riparo dietro mezzi oppure dietro case, e ne è calato un silenzio irreale. Abbiamo visto i militari del gruppo speciale, del GIST, dei carabinieri, con tenuta mimetica, entrare e uscire. Abbiamo visto un cane robotico, abbiamo visto degli sfondaporta, insomma la sensazione è che qualche svolta stesse per arrivare, ed è finita esattamente come si aspettavano, come speravano le autorità, cioè senza che nessuno si facesse male. L'uomo ha consegnato le armi circa un'ora fa ed è stato portato all'interno di una tabaccheria sempre nella zona rossa, dove sta parlando, almeno fino a poco fa stava parlando con i militari, quindi dovrebbe ancora essere qui dalle informazioni in nostro possesso, ma ovviamente la situazione di pericolo per l'ordine pubblico è cessata, avendo lui spontaneamente consegnato i due fucili e la pistola che deteneva ormai illegalmente. Cosa ne sarà di Luca Orlandi, il 55enne ingegnere, adesso cosa succederà a lui in questo momento non è dato saperlo, vedremo sicuramente nelle prossime ore, nelle prossime edizioni vi potremo dare anche qualche dettaglio in più su queste 48 ore, magari qualche dettaglio che prima non era emerso, e potremo anche dirvi che decisione è stata presa sulla posizione dell'uomo, che ricordiamolo, prima di l'altro ieri, prima di mercoledì, non aveva commesso reati se non un illecito amministrativo, cioè non aveva consegnato delle armi che deteneva non più lecitamente perché era scaduto il porto d'armi. La linea a voi. Ringraziamo Antonio Di Bartolomeo per averci aggiornato in diretta. Un centinaio i residenti di Cordovado che sono stati limitati nei loro spostamenti a causa di questa vicenda, per un concittadino che è sconosciuto praticamente a tutti. Solo la sindaca Lucia Brunettin dice di averlo incontrato, a lei fece una buona impressione. Le telecamere puntate in un piccolo varco dove si intravedono a malapena le operazioni dei militari, i giornalisti che bisbigliano in questo lungo silenzio interrotto solo dalle campane della torre del castello medievale del bel borgo di Cordovado, che sta vivendo da più di 48 ore un'esperienza surreale che tanto ricorda il primissimo lockdown, quello della primavera del 2020. Balconi chiusi, serrande abbassate e in questo caso persino persone sfollate, quelle che vivono nella palazzina di Luca Orlandi, 13 persone ospitate in un albergo da familiari, e poi ci sono gli abitanti dei condomini limitrofi, chi chiuso in casa, chi da amici, 5 le attività commerciali chiuse e non mancano i malumori. La situazione non è bella, è il terzo giorno che non ci lasciano aprire il negozio, è brutto che per i diritti di una persona vengono calpestati i diritti di altre centinaia di persone. Gli operai che lavorano al tetto del castello hanno potuto continuare il loro lavoro, ma tra le non poche limitazioni. Abbiamo chiesto ai vigili, ci danno la possibilità di entrare velocemente per scaricare i bancali e dopo tornare fuori immediatamente. Introverso, solitario, l'ingegnere veneto Luca Orlandi ha scelto il Friuli alcuni anni fa, ma nessuno dice di conoscerlo. Dal Veneto, degli amici lo descrivono come una persona molto intelligente e buona, dedicato alla mamma e ai due fratelli disabili per molti anni. Io ho conosciuto Luca Orlandi quando sono diventata sindaco. Lui si è presentato, ha chiesto un appuntamento. Ricordo di aver avuto con lui un dialogo di un'ora e mezza, dove abbiamo parlato molte cose e ricordo che mi ha raccontato che usciva di sera per scoprire le particolarità e i posti nascosti di Cordovado, che a lui piaceva molto. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. 2 ore di sciopero questa mattina alla Savio Macchine Tessili di Pordenone. Nessuno dei 330 dipendenti ha preso servizio dalle 6 alle 8 e nel turno successivo dalle 7.30 alle 9.30. Altre 2 ore di sciopero convocato dai sindacati metalmeccanici FIM, FIOM e WILM si ripeteranno nel turno pomeridiano. Contestano all'azienda la disdetta in piena estate degli accordi aziendali sul premio di produzione che avrebbe impattato sugli anticipi mensili dei premi di risultato. La trattativa va avanti da qualche mese, ma con la ripresa dell'attività dopo le ferie estive, l'assemblea dei lavoratori ha votato per questa prima azione sindacale. La proprietà, la multinazionale belga Van der Wiele, punterebbe a un premio di risultato di 200 euro, ma erogabile solamente a fronte di un aumento della produttività, una crescita dell'indice di passo con il quale viene prodotto ogni ora un certo numero di pezzi. I sindacati chiedono invece 240 euro erogati a prescindere, contestando la mancanza di investimenti da parte dell'azienda rispetto alla volontà di accelerare i ritmi produttivi. Si sta esaurendo l'onda lunga positiva del 2022 per l'economia regionale, che ormai è praticamente ferma, a dirlo la Confindustria del Friuli Venezia Giulia nel suo ultimo report, e ora si teme un ulteriore rallentamento in autunno. Se non siamo in stagnazione, poco ci manca. Più 0,1% alla voce produzione industriale rispetto al trimestre precedente, meno 1,1% alla voce grado di utilizzo degli impianti, occupazione stabile. Pesano le difficoltà soprattutto dei settori auto e mobile nell'ultima analisi di Confindustria FVG relativa al secondo trimestre dell'anno. Crescita congiunturale delle vendite, soprattutto nel mercato estero, ma le previsioni sono di rallentamento e questo si riflette sul dato degli ordinativi, meno 5,8%. Insomma, va esaurendosi l'effetto di un gran 2022 sull'economia regionale, tant'è che tutti gli indicatori, se confrontati con l'anno passato, sono negativi. Economia regionale che, secondo il presidente degli industriali del Friuli Venezia Giulia per Luigi Zamò, dovrà fare i conti anche con un turismo in flessione. Il futuro è meno roseo del solito, meno roseo a livello internazionale, quindi italiano direi. Le previsioni sono di rallentamento, senza segno più o addirittura con segno meno per l'autunno. E se il presidente di Confindustria Udine, Gian Pietro Benedetti, sottolineava la necessità di investire per migliorare competitività ed essere pronti alla ripartenza, la maggior parte delle aziende intervistate da Confindustria FVG indica la volontà di non mettere un euro in più del preventivato in digitalizzazione, risorse umane, ricerca e sviluppo, con la contrazione più grossa che riguarda le intenzioni di investimento in sostenibilità ambientale. tassi di interesse e PNRR a regime, le due variabili che potrebbero allontanare le nubi all'orizzonte. Da verificare infine in autunno l'andamento degli ordinativi rispetto ai magazzini. Le aziende, siccome venivano da un momento in cui non c'erano le materie prime, si erano accaparate molti beni in più di quanto probabilmente necessari. Quindi abbiamo avuto magazzini più alti con domanda attualmente più bassa. Ha creato un doppio effetto. Speriamo finisca il primo e quindi si stabilizzi il secondo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima stagione invernale la Regione introduce una modifica al tariffario per l'utilizzo degli impianti di risalita per avvicinare i giovani alla pratica dello sci. Viene istituita un'unica categoria junior, valida dagli 8 ai 19 anni di età, che dà diritto al 75% di sconto su tutte le tipologie di ski pass. Come lo scorso anno viene inoltre confermata la completa gratuità per i bambini al di sotto degli 8 anni. La delibera che stabilisce il tariffario per gli impianti di risalita è stata approvata nella seduta odierna della Giunta regionale. Tra le novità della nuova stagione figura anche l'ampliamento dei comuni in cui i residenti possono chiedere ski pass locali, sia stagionali sia giornalieri, a tariffa agevolata e validi sul polo di emissione. Per quanto riguarda il prezzo intero degli ski pass invernali, l'aumento dei costi di gestione e manutenzione degli impianti ha determinato un incremento tariffario del 10% rispetto all'ultima stagione. La delibera regionale definisce anche la data di apertura degli impianti, prevista per venerdì 8 dicembre, compatibilmente alle precipitazioni nevose, mentre la chiusura avverrà lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, ad eccezione di Sella Nevea, che chiuderà domenica 14 aprile. Il periodo di alta stagione sarà compreso tra lunedì 18 dicembre e domenica 17 marzo. È approvata dalla Giunta regionale anche la delibera del nuovo bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione agricola per l'installazione di impianti fotovoltaici. Gli impianti sono da realizzare sulle coperture dei fabbricati e dei manufatti rurali di proprietà di aziende che hanno unità produttive in Friuli, Venezia Giulia. La dotazione complessiva del bando è di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le richieste dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 7 settembre prossimo e il 31 dicembre. I contributi saranno concessi nella misura del 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto e del 100% per quanto riguarda rimozione, smaltimento e rifacimento di coperture in amianto o fibrocemento sulle quali viene posizionato l'impianto. A seguito del decesso del sindaco di Chions, Renato Santin, avvenuto lo scorso 24 agosto, fino alle prossime elezioni, la cui data dovrà essere individuata dalla Regione tra il 14 aprile e il 14 giugno, giugno 2024, sarà il vice sindaco Diego Armellin a svolgere le funzioni di primo cittadino. A deliberarlo la giunta regionale su proposta dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Diamo ora uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Le temperature registrate poco fa a Trieste 24 gradi, mare calmo con temperatura di 24 gradi e 5 decimi. A Udine, Pordenone, Gorizia 23 gradi, a Tarvisio 20 gradi, a Tolmezzo 19, a Forni di Sopra 18, a Sappada 16 gradi e Piancavallo 15, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 10 gradi, a Lignano 24 gradi e 5 decimi, a Grado 24, la temperatura del mare in queste località è di 23 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per il pomeriggio: sarà ancora possibile qualche isolata pioggia o rovescio, venti a regime di brezza. Per domani cielo in prevalenza poco nuvoloso, non si esclude del tutto qualche isolata e debole pioggia, specie sui monti, e di pomeriggio, venti a regime di brezza. Una stagione turistica che si sta archiviando con un Benino tra alti e bassi, influenzata dal meteo e una diversificazione per territori. È l'analisi della presidente di Federalberghi regionale Paola Schneider. Molto buono il flusso turistico a Trieste, è andata bene a Grado e anche a Lignano, seppure con qualche differenza al proprio interno. Se Grado può essere soddisfatta, a Lignano dice la situazione è stata un po' a macchia di leopardo, ma su questo fenomeno hanno inciso di più le strategie messe in atto dai singoli operatori, dai prezzi praticati e ai servizi offerti. La montagna ha pagato la discesa in picchiata delle temperature a luglio, ma si è rifatta con le settimane di agosto. Il Tarvisiano lavora molto bene con gli appassionati delle due ruote che transitano lungo la ciclovia Alpe Adria. È auspicabile, dice Paola Schneider, che si dia concretezza alla diramazione verso la Carnia lungo il vecchio sedime della ferrovia. Ed è stata firmata questa mattina una convenzione di collaborazione tra l'Accademia Nautica dell'Adriatico e la Società Italiana Aeroporto Transalpino SIOT. L'Istituto di Trieste gestirà la formazione continua dei dipendenti dell'oleodotto. Suggellate dalle firme del general manager del gruppo TAL Alessio Lilli e di Bruno Zweig, direttore generale dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, la collaborazione in termini di formazione tra la SIOT e l'ITS Nautico, che nell'anno passato aveva oltre 200 iscritti ai propri corsi di istruzione tecnica superiore. Il primo risultato sono una serie di corsi per i dipendenti della SIOT su un simulatore di cui è dotata l'Accademia, che forniranno le basi tecniche e pratiche dei processi che avvengono a bordo nave nella fase di trasferimento del greggio. Alessio Lilli. Questa convenzione permetterà da una parte ai nostri dipendenti di fare e avere maggiore e miglior ricorso alla formazione continua, dall'altra parte permetterà anche a dipendenti e manager della SIOT di fare loro dei corsi ai ragazzi, ai cadetti e alle cadette dell'Accademia in un'ottica di trasferire know-how da parte di un'azienda a un istituto di formazione superiore. Bruno Zweig. La nuova frontiera è occuparsi di formazione permanente e continua, così come previsto dalla legge di riforma delle fondazioni ITS. L'abbiamo già fatto con Italia Marittima e tante altre aziende ci stanno chiedendo questo tipo di attività. Intanto sono aperte le iscrizioni ai 6 corsi istituzionali dell'Accademia Nautica, i cui diplomati hanno un tasso di occupazione del 95%. La prima, che si chiude a metà settembre, è quella per il corso per allievi ufficiali di macchina di coperta, poi via via macchinista ferroviario, tecnici per la logistica a Trieste e a Pordenone, tecnici per la progettazione navale e tecnici per la cyber security, perché ormai la normativa internazionale prevede che a bordo nave devono esserci queste figure e la normativa si estenderà anche a tutti quelli che col bordo nave lavorano. Trieste, Nada Choc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Propone un salto nel passato l'iniziativa Il Castello delle Meraviglie, Arti e Mestieri nella città rinascimentale. In calendario da oggi e fino a domenica a Trieste, al Castello di San Giusto, iniziativa dedicata a insegnare con laboratori e seminari le arti e i mestieri di una città rinascimentale, con corsi che spaziano da xilografia, pittura su ceramica e tessitura. Ne abbiamo parlato con Michele Ciac, presidente della Proloco Trieste, che ha curato l'iniziativa. Abbiamo pensato all'organizzazione all'interno di alcune attività artistico-artigianali che fossero legate al periodo originale del castello e quindi l'epoca rinascimentale, e si sono cercati degli artigiani, artisti che lavorassero dei materiali che erano usati all'epoca, come ad esempio la tessera a mano, se te l'hai in legno, il lino, la pittura su ceramica oppure la stampa xilografica, che è anche a origine più o meno nel 500. A chi vi rivolgete con questi corsi? Alle famiglie e particolarmente ai bambini, perché sono dei laboratori che consentono proprio il lavoro materiale, cioè proprio toccare, provare, creare degli oggetti, e insegnare un po' la manualità, forse una cosa che si sta perdendo. Presentata questa mattina la stagione di prosa del teatro La Contrada di Trieste, 27 gli spettacoli in calendario tra titoli in stagione ed eventi speciali. Si comincia il 19 ottobre con La Nona di Roberto Cossa, drammaturgo italo-argentino, una commedia in cui la nonna, protagonista, è despota e parassita e consuma il denaro e le energie di tutta una famiglia, uno spettacolo che mischia atmosfere sudamericane ai dialoghi in triestino della beniamina di casa Ariella Reggio. Altra novità, Plaza Suite, dal 23 novembre, che porta in scena le vicende a tratti imbarazzanti di 3 coppie in una lussuosa suite dell'Hotel Plaza di New York. Sempre produzione Contrada, dal 15 febbraio un allestimento musicale tratto dal romanzo La Cotogna di Istanbul del giornalista e scrittore triestino Paolo Rumiz, dal titolo Un sogno a Istanbul, che rievoca il mondo balcanico attraverso la passione. Tra gli altri spettacoli in cartellone, Tenente Colombo, analisi di un omicidio dal 9 al 12 novembre, la commedia La signora omicidi di William Arthur Rose dal 14 al 17 dicembre, dal 25 al 28 gennaio poi Ambrangiolini presenterà La storia di Oliva Denaro, dall'omonimo libro di Viola Ardone tratto dalla vicenda di Franca Viola. Ai 13 titoli in stagione si aggiungono 14 eventi speciali già in prevendita. Il sipario del Bobbio si alzerà il 6 ottobre con Boom del comico, autore e regista Emiliano Luccisano. Tra le altre proposte, il 12 dicembre, Poiana e i suoi fratelli dell'attore e regista Andrea Pennacchi. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Storie noir di un intellettuale fuori dagli schemi è la serata dedicata a Carlo Achim de Medici, scrittore del decadentismo italiano ma anche disegnatore, giornalista e studioso di occultismo e esoterismo. Appuntamento a Gradisca di Sonzo in Corte d'Aviano alle 20.30. Margherita Reguitti, che condurrà l'incontro, abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento. Era sicuramente un uomo contemporaneo, poliedrico, scrittore, disegnatore, giornalista, appassionato di scienze esoteriche, un uomo avvolto nel mistero. Solo recentemente si sono scoperte le date di nascita e di morte, 1887-1956. Ha vissuto a Gradisca di Sonzo, in una villa che tuttora esiste, tuttora è abitata. Di lui rimangono solo per il momento i suoi libri, ma tanto c'è da scoprire, perché sicuramente uno degli scrittori più importanti della letteratura gotica del Novecento. Sono testi sì di genere, ma di grande contemporaneità nel tema: l'indagine dell'assoluto, il racconto di un essere alla ricerca di grandi risposte che ha a che fare col senso della vita e con il valore della morte, ma anche con dei dettagli di vita quotidiana non obsoleta, in quanto non contestualizzata nel suo periodo. Siamo allo sport, calcio, Udinese e Frosinone, match valido per la terza giornata di Serie A, si giocherà domani allo Stadio Friuli alle 18.30. Si tratta del quinto confronto in Serie A tra Udinese e Frosinone, il bilancio sorride, i bianconeri con due vittorie, un pareggio, una sconfitta. 5 gol fatti, 4 quelli subiti. La maggior parte delle reti friulane è arrivata nell'ultimo precedente, terminato 1-3 il 12 maggio 2019 al Benito Stirpe. Furono decisive la doppietta di Stefano Cacca e l'incornata di Samir. I ciociari invece non hanno mai vinto in trasferta a Udine. Quanto alla Triestina, che lunedì sera debutterà in campionato in casa contro il Trento, stasera alle 19 è in programma la presentazione della prima squadra in Piazza Verdi a Trieste, a cui interverrà il governatore Massimiliano Fedriga. 150 giovani arbitri del calcio dilettanti sono impegnati da ieri a Tarvisio nel raduno regionale. In mattinata sono cominciate le prove sportive. Test atletici, quiz sulle regole e misurazioni e sotto la pettorina fosforescente l'immancabile maglia nera. È il raduno regionale degli arbitri del Friuli Venezia Giulia, dove partecipano, distribuiti in due giornate, in 150, quasi tutti uomini, le donne sono 3. Riccardo Rosse, presidente del comitato regionale arbitri. Questi ragazzi hanno iniziato tutti dalla sezione, le varie sezioni, ne abbiamo 7 in Friuli Venezia Giulia, e hanno iniziato la loro, diciamo, il loro percorso di crescita. Sono arrivati alla categoria regionale e sono valutati da osservatori dell'AIA arbitrali, che sono un punto importante sia per la crescita, quindi per dare consigli, ma anche per valutare la prestazione di un arbitro. Arbitreranno le partite della prima categoria, senza assistenti, cioè i vecchi guardaline, della promozione e dell'eccellenza, l'ultimo gradino prima della Serie D. Poi si passa al calcio professionistico. I test fisici sono sempre più impegnativi. Chi non riesce a stare dentro i limiti previsti non potrà arbitrare. Per chi li supera ci sono poi i test a crocette sulle regole, con tutte le novità appena introdotte. Non ci sono grandi cose, però una che è stata introdotta è quella di un tempo aggiuntivo di recupero legato alla esultanza, al tempo che si potrebbe perdere a seguito delle segnature delle reti, dei gol. Conta il fisico, conta la tecnica, ma è importante formare anche un carattere deciso. Deve essere capace di decidere in maniera veloce, essere sicuro dei propri mezzi ed essere nel mondo, nel calcio d'oggi, preparato. Preparato atleticamente, a livello regolamentare, preparato anche mentalmente. Deve essere sereno e avere la freddezza di dire: ok, ho visto bene, decido in base a quello che ho imparato e quelle che sono le mie competenze. Tarvisio, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. dedicata alla riflessione comunitaria, alla preghiera ecumenica e all'azione per promuovere la cura della Casa Comune dell'Umanità, l'iniziativa Tempo del Creato 2023. Oggi, in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, l'appuntamento è il concerto dell'organista Maria Grazia De Paoli a Vascletto nella chiesa parrocchiale alle 17. Erbere, donne fra sapere, creatività e innovazione, la mostra itinerante a Cividale che allestisce opere floreali di carattere storico create dall'artista Antonella Cappuccio, in cui si raccontano i periodi storici collegati alla scomparsa e ricomparsa della cultura dei fiori. L'esposizione è accessibile fino a domenica 3 settembre a Cividale nel monastero di Santa Maria in Valle, con orario 10:18, in inaugurazione alle 19:30. In occasione della quarta edizione di Robotics, Festival di Arte Robotica, sarà presentato il libro Zombie e Cyborg, il postumanesimo di Stellark, a cura di Maria Campitelli e Valentino Catricalà, a Trieste, a Caffè San Marco, alle 18:30. Sguardo sulle donne dell'agrado di un tempo, la lettura recitativa di alcuni ritratti femminili che proporrà riflessioni e racconti, a Grado, a Villa Teresa, alle 21. Prende via nel pomeriggio da Orisina la tradizionale settembrina, festa promossa dalla Commissione Tempo Libero dei Lavoratori a Cegas APS AMGA di Trieste. L'appuntamento ai filtri dalle 17. Il festival folcloristico Danzando tra i Popoli propone oggi un viaggio tra le villotte del Friuli con la compagnia da Franca e il coro della Società Alpina Friulana di Udine. Appuntamento a Blessano di Basigliano alle 20:30. Prevista poi un'esibizione a Galleriano nell'area festeggiamenti alle 20:45. Ed è tutto per questo giornale radio, redatto e condotto da Maria Spezzi e Francesca Vigori, con la collaborazione tecnica di Andrea Fontanotte e quella in redazione di Laura Sarasini. Grazie per essere stati con noi. Ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.